Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Oggi parleremo di agricoltura, di un argomento molto particolare. Il ritorno di molti giovani in questo settore, un settore sicuramente faticoso, ma visto i dati così sconcertanti appunto sulla disoccupazione giovanile, ebbene ci sono storie che toccano il settore dell'agricoltura molto molto confortanti da parte di giovani, giovanissimi, di diplomati e di laureati, ma anche di chi non ha studi di scuola superiore. Devo dire che comunque queste storie sono molto particolari e molto intriganti, ma voglio raccontare da una storia positiva. Andiamo nelle vicinanze di Milano, andiamo ad Abbiategrasso, andiamo da uno dei quattro soci di un'azienda agricola di cui ora ci racconterà Michele Bertoldi. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Michele, raccontaci un po' questa storia, perché voi avete iniziato, avete trovato un mecenate, questa forse è stata una grande fortuna da parte vostra, però sì, ormai sì, avete un'azienda addirittura che ha anche diversi punti vendita. Sì, noi siamo in attività da un anno, abbiamo compiuto un anno il 2 febbraio del 2015, e siamo un'azienda agricola appunto ad Abbiategrasso, ci chiamiamo Società Agricola Fraschina. Sì. Perché siamo locati alla Cascina Fraschina di Abbiategrasso e appunto nasciamo come un'esperienza nuova di aggregazione di tre giovani più un giovane dentro che ha scelto di cambiare vita, è il vero agricoltore per scelta, perché ha cambiato la sua vita e si è messo in questa avventura con noi. Voi invece siete ex studenti o ex laureati? Cosa? Mi sono laureato la triennale in università a Milano, mentre i due ragazzi Andrea e Tommaso stanno ancora finendo il terzo anno di università. Avete preso in mano questa azienda agricola e che cosa produce? Noi produciamo ortaggi biologici in agricoltura biologica e poi abbiamo un vivaio di piantine da orto, quindi partiamo dal seme, facciamo la piantina in alveolo che poi rivendiamo agli altri orticoltori che le useranno per i trapianti. Anche queste hanno la certificazione biologica e quindi abbiamo avuto subito un mercato favorevole, perché diverse aziende stanno passando all'agricoltura biologica, il mercato del biologico è uno dei pochi mercati in crescita che anche durante la crisi economica è riuscita a mantenere la crescita, e appunto le diverse aziende qui dell'Ovest di Milano ci hanno da subito contattato per avere queste piantine che abbiamo iniziato a produrre la primavera scorsa. Michele, com'è venuta questa idea? Allora, questa idea è venuta essenzialmente da un incontro. Io dopo l'università ho fatto un corso di specializzazione con AIAB Lombardia, Associazione Italiana Agricoltura Biologica. Con loro ho conosciuto questo professore, Antonio Corbari, che ha avuto una sua azienda e un suo vivaio di piantine da orto, appunto, come il nostro, a Cernusco sul Naviglio. Lui ci ha seguito in questo corso e dopodiché lui ci ha proposto di iniziare questa avventura, certo, perché lui conosceva il proprietario della Cascina Fraschina. Io, Michele, do il vostro indirizzo, perché voi avete anche dei negozi dove vendete direttamente, quindi è Cascina Fraschina di Abbiategrasso. Voi avete anche un negozio, se non sbaglio, anche a Milano dove vendete, quindi vero? Non direttamente a Milano, ma vendiamo in centro ad Abbiategrasso. Sì. Corso 20 settembre. Bene. Corso 20 settembre ad Abbiategrasso abbiamo il nostro punto vendita dove vendiamo direttamente i nostri ortaggi. Li abbiamo chiamato ortaggi a chilometri 5 perché esattamente 5 chilometri dalla Cascina. Siamo una cosa bella, se posso concludere, è una collaborazione che stiamo facendo con altre 5 aziende che producono ortaggi biologici, e abbiamo creato una rete di impresa agricola. Sì. E con le quali collaboriamo, facciamo mercatini, serviamo dei gruppi d'acquisto solidale, quindi Complimenti, complimenti Michele, vi auguro tanta fortuna, vi auguro tanta fortuna, perché mi sembra che questa idea sia veramente bella, perché partite dalla terra e poi la rete, oggi sono cose che possono funzionare. Grazie Michele Bertoldi. Ora però andiamo a Bologna, andiamo a Nomisma. Nomisma fa moltissime ricerche e ultimamente ne ha fatta una che si chiama Giovani all'Agricoltura, sempre ad opera del velocissimo Denis Pantini. Buongiorno Denis. Buongiorno Davide. Cioè, io racconterò tante belle storie, però tu mi arrivi con una ricerca che mi toglie tutta la positività che volevo portare, perché i dati non sono poi così splendidi. Diciamo che adesso, ascoltando l'esempio di questo giovane agricoltore, mi verrebbe da dire che purtroppo sono ancora pochi i casi dei giovani che rientrano in agricoltura o che subentrano in agricoltura magari alle vecchie generazioni, perché la nostra agricoltura soffre ancora di un'elevata senilizzazione dei conduttori, quindi abbiamo pochi giovani e tanti capi aziende ancora vecchi. Sì, però vedo delle forze fresche, io così ho cercato casi in giro per l'Italia e vedo che c'è molta energia da questi giovani che entrano in agricoltura. Quello indubbiamente, anche perché c'è una riscoperta un po', no, di tutto quello che è il cibo, l'agroalimentare, ma lo si vede anche nelle trasmissioni televisive. Adesso lasciamo perderle quelle particolari, sì. Però sai, alla fine il tema è quello, e oggi quello che vediamo nei giovani, ci sono sicuramente dei casi di chi ha voglia di rimettersi in gioco e di entrare in questo settore, che però continua ad avere dei grossi problemi, cioè delle grosse, grandi barriere all'ingresso, perché anche noi nella nostra ricerca abbiamo praticamente intervistato un migliaio di giovani, di cui la metà agricoltori e la metà non agricoltori, per capire effettivamente quant'è l'attrattività di questo settore. Il problema è che chi è dentro riconosce una grande fatica nel stare sul mercato, chi è fuori invece non lo vede ancora così come un settore in grado di dare ricchezza e dignità, salvo alcuni casi di chi riesce a posizionarsi sul mercato su attività invece un po' più innovative. Uno di questi è sicuramente l'agricoltura biologica, perché chi non viene da questo settore la gran parte si dedica proprio a questo segmento, e altri sono invece chi si dedica all'attività di produzione di vino, perché questo, diciamo, che è un settore che in questo momento va di moda e quindi attira anche i giovani. Però ripeto, il problema sta nell'ingresso, cioè il fatto che per avere un'azienda un po' competitiva devi comunque avere una dotazione di terra non indifferente, e si sa che in Italia la terra costa. Sì, è vero. Io voglio tornare un secondo alla tua battuta sulla televisione e il cibo, che credo che se si facessero meno reality e meno talents, diciamo, sulla cucina e sulle ricette, si facessero un po' sui mestieri, si facessero sulla terra, forse sarebbe molto molto meglio, sarebbe, diciamo, come posso dire, un bel servizio al paese e un bel servizio anche alla disoccupazione. Di cuochi ce ne sono talmente tanti, e tanti che sono iscritti, che i prossimi anni veramente ci sarà tanta disoccupazione. Forse questo molti ancora non se ne sono resi conto, perché sperano sempre di diventare chef. Grazie a Denis Pardini, grazie sempre alle tue ricerche. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Continuiamo questo viaggio tra queste giovani storie di imprenditori nel mondo dell'agricoltura. Abbiamo sentito che le ricerche non sono così positive. Io invece voglio essere positivo, voglio essere l'ottimismo della volontà invece che il pessimismo della ragione. E allora voglio raccontare appunto questi casi, che sono casi estremamente interessanti. E ora voglio andare in provincia di Siena, ad Arcidosso, voglio andare da Elisa Bindi. Buongiorno Elisa. Siamo in provincia di Grosseto, però. Bene, abbiamo corretto così. Sì, certo che i grossetani ci tengono a non essere senesi, vero Elisa? Elisa è un caso molto particolare, perché dopo aver studiato, dopo aver creato una sua propria attività, addirittura ha incorporato quella dei genitori. Quindi splendida dell'azienda di famiglia. Splendido esempio. Ci vuoi raccontare un po' la tua storia, Elisa? Allora, noi di famiglia abbiamo sempre avuto questa azienda agricola di vocazione zootecnica, quindi allevamento di suini, bovini, pecore da carne. Questa appunto era stata avviata da mio nonno, poi l'aveva presa mio zio, e a cui poi è stata ampliata con la realizzazione di due strutture agrituristiche all'interno. Finiti gli studi, io mi sono laureata in economia dell'ambiente e turismo sostenibile. Ho deciso poi di intraprendere, diciamo, continuare questa tradizione in agricoltura, e quindi ho fatto prima una mia piccola azienda, poi con la pensione di mio zio ho rilevato l'azienda di famiglia. Ecco, volevo chiederti questo, ma quando un giovane come te entra così in questo nel mondo del lavoro, viene aiutato in particolare, cioè non so, dalle associazioni, dalla regione, oppure siete lasciati un po' a voi stessi? No, ci sono degli aiuti comunitari tramite il PSR, infatti ecco, quando ho creato la mia piccola aziendina appunto ho acceduto a questi fondi attraverso il piano giovani e questo mi ha consentito appunto di acquistare delle piccole, insomma, un piccolo appezzamento di terreno e poi sì, accedendo diciamo ad altro tipo di contributi sempre attraverso il PSR, quello per il miglioramento aziendale, ho proseguito insomma appunto prendendo anche l'azienda di zio. Ecco, una donna in agricoltura ha maggiori difficoltà rispetto a un uomo oppure ormai la pariteticità dei sessi e anche nel lavoro e soprattutto in agricoltura che da sempre pareva essere un mestiere da uomo? Beh, quello dipende anche un po' dalla volontà delle persone. Certo, essendo donna alcune problematiche ci sono magari di più, soprattutto appunto su un discorso di allevamento zootecnico quando c'è da lottare con un vitellone. Certo. È più semplice essere uomo che donna in questi casi e sì, è un lavoro che comunque richiede anche un po' di forza fisica, però ecco, con la volontà e con la passione si fa tutto. Ecco, diciamo che sei in una zona abbastanza di razza chianina, immagino, oppure i tuoi animali sono di altre razze? Io ho altre razze. Sì, perché il fianino comunque è un animale piuttosto, diciamo, anche un po' complicato come tipo di allevamento e sì, diciamo, abbiamo avuto alcuni capi fianini, però non è quello che poi mi ha, diciamo, il tipo di allevamento che poi ho portato avanti, insomma. Bene, io ti ringrazio, grazie della tua testimonianza, grazie ad Elisa Bindi, Arcidosso, in provincia di Grosseto. E ora ripartiamo alla ricerca di queste storie bellissime e andiamo a Modena, anzi provincia di Modena, in una frazione, a Cognento di Modena, da Eugenio Pellicciari. Buongiorno Eugenio. Sì, buongiorno Davide. No. Azienda agricola Re Laurino. E allora sentiamo un secondo, perché questa è una storia davvero intrigante, perché si parte dall'agricoltura e si arriva alla birra, perché ora ce lo spiegherà il nostro Pellicciari. Questa azienda è composta da alcuni giovani. Pellicciari, ce li racconta chi sono questi giovani? Sì, certo, siamo io e diciamo il mio socio Gabriele. Noi siamo partiti ormai nel 2011, alcuni anni fa, approfondendo da quando ancora studente universitario ad Agraria, ho iniziato a approfondire il discorso del luppolo e qua nella nostra zona ci sono notizie storiche che appunto a proposito di coltivazioni di luppolo nell'Ottocento e addirittura c'è un luppolo che venne premiato a un'esposizione internazionale in Alsazia e appunto in scia di questo mito siamo partiti noi come promotori e poi il comune di Marano sul Panaro e l'Università di Parma in un progetto di ricerca appunto sul lupolo autoctono della zona, quindi con un campo sperimentale e facendo analisi appunto sulle stagioni di coltivazione, ormai sono tre stagioni sui lupoli che avevamo in campo, che avevamo reperito in giro. La coltivazione del lupolo in Italia è estesa, è rara, com'è? Beh, la coltivazione del lupolo in Italia è praticamente inesistente, nel senso che come paese prettamente di cultura vitivinicola è sempre stata osteggiato comunque disincentivata dalle istituzioni e così nel fascismo, così prima e anche negli anni più recenti. Oggi con il movimento della birra artigianale diciamo che c'è un grosso interesse su tutta la materia prima che è necessaria alla produzione e il lupolo viene coltivato in tutto il mondo. Nel nostro paese ci sono alcuni agribirrifici che autoproducono la propria materia prima, ma in volumi piuttosto ridotti e comunque non in metodi convenzionali, quelli che sono i metodi utilizzati nei paesi di più grossa produzione. Noi stiamo cercando di fare proprio questo, cioè prendere le, le metodologie, il know-how dai paesi di più storica tradizione, cercare di portarli qua applicandoli a un contesto che è quello emiliano. Pellicciari, oggi è raro trovare una birra che sia tutta made in Italy. Sì, sì, assolutamente, sì, è piuttosto raro, io direi quasi impossibile. Poi ci sono, diciamo, diversi punti di vista, diverse interpretazioni che, come è solito per la lingua italiana, si prestano a molte interpretazioni appunto differenti. Però ad oggi una vera e propria coltivazione di luppolo italiano non esiste, penso di poter dire... quasi certamente che non esista. Senta, ma dunque, continuiamo nel vostro percorso. Voi avete cominciato a coltivare il lupolo, ma avete anche altre coltivazioni nella vostra azienda agricola Re Laurino? Ma noi nell'azienda agricola siamo... L'azienda agricola parte proprio con il focus del lupolo e quindi ci siamo incentrati più che altro su quello. Poi abbiamo certamente altre... tutta una serie di prodotti di orticole, facciamo anche una certa parte di orticole, e quello che è importante è che comunque su tutto, dal lupolo al resto dei prodotti, cerchiamo di lavorare con un'ottica di qualità, applicando comunque una coltivazione rispettosa e naturale, biodinamica, con un approccio biodinamico. Senta, facciamo capire anche ai nostri radioascoltatori, è importante, cioè come si arriva alla birra. Allora, la produzione del lupolo, voi arriverete alla produzione del lupolo che fornirete le birrerie artigianali? Ai birrifici, certo. Sì. Ai birrifici artigianali. Quindi come avviene questa lavorazione? Cioè dal lupolo che esce dai campi, poi cosa succede? È la parte sostanziale del processo, infatti non è tanto, diciamo che nelle ore dalla raccolta della pianta, del lupolo, fino per tutto il processo, fino alla stabilizzazione, all'essiccazione, sono le ore un po' più cruciali per tutto l'anno di coltivazione, perché è in quella fase che se non si lavora bene si rischia anche di buttare al vento l'intero lavoro dell'anno. L'essiccazione deve essere fatta con macchinari appositi che ovviamente trattino il prodotto nelle tempistiche, nei modi giusti perché appunto è un prodotto molto delicato e composto da oli essenziali che, se trattati a troppo alte temperature oppure in un periodo di tempo troppo esteso dalla raccolta, troppo lungo dalla raccolta, rischiano di perdersi e quindi di svanire poi nella birra che si va a produrre con quel lupolo. Ecco, senta, io sento parlare spesso di birra agricola. Cosa significa birra agricola? Beh, la birra agricola è, direi, l'idea che si avvicenda alla definizione birra agricola è una birra fatta per lo più con materie prime prodotte o nel comprensorio del birrificio o dal birrificio stesso, quindi da un birrificio agricolo. Quindi anche il lupolo, cioè anche il lupolo deve essere prodotto nei campi, poi da dove si produce, cioè dove c'è la birreria, così, dove c'è questa... Sì, per definizione credo che il 51% della materia prima della birra deve essere prodotto dall'azienda agricola. Poi dipende, il più delle aziende agricole utilizzano l'orzo, perché l'orzo comunque è una materia prima che è molto meno implicativa a livello di coltivazione quindi è più facile da gestire. E poi è molto più diffusa in Italia. Grazie, certo. Grazie a Eugenio Pellicciari, azienda agricola Re Laurino. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo nel mondo dell'agricoltura, nel mondo della terra che tanto è trascurato in questo paese. Io torno sulla mia polemica con la televisione, come ho detto prima, che in realtà forse ci fosse meno cucina e ci fosse più agricoltura, ci fossero dei master chef per, non lo so, per bovari, per allevatori di pecore o d'altro, forse... Sarebbe veramente un bel servizio alla disoccupazione giovanile. Ma ci sono delle storie bellissime. Purtroppo il pastore che oggi volevo far intervenire in trasmissione è irreperibile, non riusciamo assolutamente a trovarlo col cellulare, perché è un personaggio che vaga tra le montagne, ma è una storia emblematica di un ragazzo che tra l'altro diplomato in meccanica addirittura, ha scelto 400 pecore per portarle nelle tre cime di Lavaredo durante la stagione. Non solo, ha una fidanzata che si è rifiutata di fare la fotomodella, che era stata così, diciamo, scoperta da un noto fotografo, e aiuta anche lei questo pastore. Si chiama Davide Bortoluzzi, lo voglio ricordare perché secondo me è una storia bellissima. Come dico, mi spiace molto non averlo con noi. Ma ora andiamo in Lombardia, perché in realtà la Lombardia negli ultimi anni ha avuto moltissimi case history di giovani che sono tornati all'agricoltura o hanno preso in mano l'agricoltura, diciamo l'azienda di famiglia, o ne hanno creato nuove magari attraverso il web, attraverso la vendita online. Oggi ho con me l'assessore all'agricoltura della regione Lombardia. Buongiorno a Gianni Fava. Buongiorno Paolini, buongiorno agli ascoltatori. Senta Fava, ma come mai? Cioè la regione Lombardia, che viene sempre vista come una regione piena di ciminiere, di metalmeccaniche, di aziende di mobili, tessili, invece ha una realtà agricola forse la più importante d'Italia, se non la più importante, tra le più importanti d'Italia, e ha tanti casi, perché io ho visto tanti casi di giovani che sono tornati all'agricoltura. Ma diciamo che vanno eliminati gli aspetti dubitativi della questione. Non è che la Lombardia forse è la più importante regione agricola italiana, è la più importante regione agricola italiana, aggiungo la più importante realtà agroalimentare italiana e dal mio punto di vista anche europea, no? Ogni tanto ci giochiamo questo primato con la Baviera, c'è questa rincorsa, vediamo, a seconda di come si leggono i numeri, qualcuno dice che siamo primi, qualcuno dice che siamo secondi, ma non mi appassiona questa competizione, se non conferma il fatto che la Lombardia ha una vocazione agricola storica che prosegue, una vocazione agroalimentare addirittura maggiore di quella agricola da questo punto di vista, e quindi è evidente che in un contesto così evoluto in termini di numeri non c'è dubbio che chi guarda con certo interesse a una prospettiva di lavoro e di vita nuova guardi all'esperienza, alla storia agricola lombarda in chiave nuova, e qualche giovane si stia realmente avvicinando. Purtroppo sono abbastanza concorde con i dati sconfortanti di Nomisma, nel senso che nella realtà sono più i talk show televisivi che parlano di un ritorno all'agricoltura che i dati che attestano la reale partecipazione di giovani ad un rinascimento agricolo lombardo. Però diciamo che qui sono stati messi a disposizione molti strumenti, e i giovani lo sanno, i giovani sono informati, si avvicinano alla regione, vedono che la regione Lombardia mette a disposizione strumenti concreti per poter dar vita alle proprie attività e cercano di portarle avanti, iniziano, ci provano. Poi alla fine purtroppo ne facciamo i conti con un mercato che è abbastanza impietoso da questo punto di vista e che nel lungo periodo potrebbe non garantire anche molti quei giovani che si stanno affacciando oggi a questo mondo. Ecco, rimanga con noi perché abbiamo una giovane produttrice di vino dell'Oltrepò Pavese che è entrata nell'azienda storica di famiglia e sta cercando anche di creare, diciamo, nuovi canali per il suo vino. Buongiorno Ottavia Giorgi. Buongiorno Ottavia. Buongiorno Davide, buongiorno. Azienda Evistarino, una bellissima azienda dell'Oltrepò. E Ottavia da un po' di anni è subentrata in azienda. Cos'è cambiato, Ottavia, da quando sei entrata in azienda e hai preso le redini, insomma, dell'attività, se non altro quella commerciale? Beh, allora, innanzitutto diciamo che l'agricoltura e in particolare quella vitivinicola è molto cambiata negli ultimi, direi, 20-30 anni. Quindi diciamo che inoltre a Pavese, come diciamo che poi è arrivato un po' dopo, ma anche diciamo in altre parti d'Italia, negli anni 70 l'uva era considerato un prodotto agricolo come tanti altri. Quello che è cambiato col mio avvento è stato quello di valorizzare un mero prodotto agricolo, quindi l'uva, per dargli una destinazione di qualità nella bottiglia e anche a livello comunicativo. Quindi quello che è la valorizzazione in realtà del prodotto agricolo, ovvero non più una commodity, ma effettivamente un prodotto che va sul tavolo del consumatore e che deve rispondere a certe esigenze anche internazionali. Ecco, io so che tu hai cominciato a produrre un pinot nero kosher. Ecco, qual è stata la molla di questa produzione? C'è mercato per il vino kosher? Ma allora, io innanzitutto vorrei sottolineare che nel caso del kosher fondamentalmente è stato l'idea di dare un servizio, perché io voglio sottolineare che la mia è un'azienda grande che vuole fare sia qualità che però poter eventualmente avere anche un'economia sostenibile. Di conseguenza questa economia sostenibile è aiutata anche dal vino kosher, che richiede un certo tipo di lavoro e che nella nostra azienda ha trovato una buona collocazione. Quindi per me è un servizio che viene dato, è un mercato importante all'estero, quindi il prodotto che noi facciamo fondamentalmente va tutto all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Ed è un business che, diciamo, mi permette di investire poi sulla qualità dei miei prodotti a marchio Conte Vistarino. Assessore, ma ecco, questa è un'innovazione interessante, cioè di creare appunto queste vie di nuovi canali. Lei cosa ne pensa? Ma penso che pensavo di essere a caramba che sorpresa, perché mi sono trovato con Ottavia Giorgi, che saluto, che è una brava imprenditrice, giovane, dinamica, intraprendente, una che mi marca stretto, come la maggior parte dei giovani imprenditori lombardi, e che ha, come tanti altri, ma in particolare lei, intercettato alcune nuove esigenze del mercato. Quella che è mancata probabilmente all'agricoltura, che è mancato all'agricoltura italiana in generale, per un certo periodo anche quella lombarda, è stata la versatilità. Cioè i mercati cambiano le abitudini, continuare a produrre le stesse cose non sempre è conveniente, quindi è evidente che nel momento in cui si fa una scelta si deve fare una scelta precisa. Noi come regione, ad esempio sul vino, abbiamo deciso col mio vento, abbiamo deciso di cambiare decisamente il registro in materia di internazionalizzazione. Per esempio abbiamo scelto quest'anno di premiare con le OCM solo quei progetti di internazionalizzazione che prevedono la prevalenza del vino in bottiglia, che non è banale, attenzione, perché in quel territorio soprattutto il vino in bottiglia, ahimè, non sempre è stato un elemento condiviso. Cioè, qualcuno ha sempre pensato, come diceva giustamente Ottavia, che fosse una commodities, no? L'uva, un vino, una cosa qualsiasi. In realtà il vino è identità, è territorio, certo, è storia, è tradizione. Ma io vi lancio una provocazione a tutte e due. Dico, un territorio come quello dell'Oltre Po, che ha delle potenzialità straordinarie, però, permettetemelo di dire, stenta a decollare. Cosa ne pensi, Ottavia? Sapesse quanto tempo mi impegna l'Oltre Po Pavese da questo punto di vista. È un territorio che stenta a decollare, credo semplicemente, ha tutte le potenzialità per fare cose straordinarie. Stenta a decollare, credo, più per un limite culturale, purtroppo, che non per altro. Ma ci sono giovani, come Ottavia, che è qui, che ci fa la testimonial di questo, che hanno cominciato a capire che le cose vanno cambiate, che cominciano a ragionare in una prospettiva che evolve verso un mercato moderno, più nuovo, e che soprattutto è una prospettiva che tende ad aggregare. Attenzione, non aggregare la produzione, aggregare l'offerta, mettere insieme i soggetti, tutelarli, l'idea che ci sia la tutela sul prodotto. Sono cose che sembrano banali, dette così, ma non sempre lo sono, no, certo, a determinate latitudini. Ma, Ottavia, ma c'è un movimento di giovani vitivicoltori nella tua zona che sta venendo fuori? Allora, intanto ringrazio per essere considerata ancora giovane, che diciamo che per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale rimango giovane forse ancora per un anno e mezzo. Ci siamo ancora. Devo approfittare di questi ardenti momenti, ma detto questo, per quanto mi riguarda, io più che credere a questo punto nei lavori di gruppo comincio a credere nel lavoro individuale. Cioè, mi ritengo uno di quei giovani che ha pensato che forse cominciare a lavorare bene nella propria azienda con delle idee molto precise e con una, come si può dire, con una coerenza per la strada che si sceglie, e quindi non cercare di non dover scendere a eccessivi compromessi, sia la cosa migliore. Io, se dovessi dare un consiglio ai giovani oggi in Oltre Po, gli direi di mantenere un'identità molto forte e di cercare di capire che cosa vuole il mercato, cioè non cercare di imporre dei prodotti che tradizionalmente sono oltrepadani, ma che il mercato non vuole. Guardare all'offerta piuttosto che alla domanda, insomma, mi sembra questo. Grazie sia all'assessore che Ottavia Giorgi, ma ora andiamo in Piemonte, andiamo a Ivrea con una storia molto bella, perché qui si parla di detersivi, si parla appunto di biodegradabilità, ma in realtà cosa c'entra con l'agricoltura? Paola Polce. Buongiorno agli ascoltatori. C'entra perché nella storia, molto recente, gli uomini sempre si sono avvalsi dell'agricoltura e del territorio per trarre tutte le risorse utili alla vita, non solo all'alimentazione o alla cura della persona che già è tantissimo, ma proprio per le necessità impellenti della vita. E noi non trovavamo niente di strano a incanalarci nel percorso accidentato dell'agricoltura no food per dire, vabbè, fino a ieri qua con i macerati di ortica e di alcune piante si facevano certe cose utili per lavare, per disinfettare, per fare, noi abbiamo recuperato alcune tradizioni in più. La dottoressa Botta, che è la chimica che ha creato questa bella idea che io poi ho, come dire, formato e reso reale, ha studiato delle tecniche innovative, perché comunque di letteratura pregressa noi non c'è veramente niente dal punto di vista della detergenza fatta con le piante, e quindi abbiamo creato un prodotto che significa questo, significa: uomo, se vuoi, tu dalla terra puoi veramente trarre quello che ti è utile senza usarla e sciuparla in un modo osceno, ma magari creando uno scambio eco, creando un progetto green che si inserisce nel contesto che lo ospita senza fare dei danni stratosferici. Crei un prodotto che dice alla gente: guardate che si può vivere con agio senza però infettare e sporcare le acque continuamente, senza mettere in pericolo la tua persona. Paola, rimanga con noi ancora, che devo passare la linea alla regia, poi riprendiamo con lei con questo discorso. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a riprendere il discorso con Paola Polce, che produce di Vreva, come dicevo, richiestissimi detersivi ecologici. Ma da dove arrivano questi detersivi ecologici? Lei ce lo sta spiegando. Arrivano dalla terra, arrivano dal sambuco, arrivano dalla carota. È così, vero Paola? Sì, arrivano da un territorio dove noi abbiamo acquistato quello che ci serviva per fare la nostra cascina e abbiamo studiato sia quello che era spontaneo e molto interessante per noi, come il sambuco o l'ortica o la sitolacca, e abbiamo impiantato anche però quello che ci serviva, cioè erbe aromatiche officinali che in precedenza la mia socia aveva già studiato. Quindi in continuo esperimento, perché noi non ci fermiamo mai, stiamo semplicemente facendo dei macerati con queste piante e alcuni, diciamo così, mezzi di supporto, come sono l'aceto biologico di mele, l'alcol biologico di grano, alcuni grassi vegetali, e creiamo queste sostanze che hanno avuto una gestione di 20 anni, cioè non sono nate all'improvviso queste cose. La mia socia, che è un tipo veramente originale, ha studiato che le acque erano gravemente danneggiate da alcuni fattori, soprattutto da uno strautilizzo di detergenti, di cosmesi, di chimica, e quindi ha deciso che nella vita avrebbe cercato di lavorare per la salvaguardia delle acque e che era necessario ritornare alla terra per prendere da lì quello che ci serviva. Complimenti, la ringrazio, perché questa è veramente una bellissima storia. Ma ora andiamo in provincia di Bologna, andiamo all'azienda La Martina, da Andrea degli Esposti. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno, da lei a un certo punto mi dicono ha mollato gli studi, e cosa è successo? Sì. Niente, fino all'età di 18 anni ho vissuto a Bologna, dove ho conseguito la licenza liceale. Poi dopo, visto che mia nonna aveva del terreno appunto in provincia di Bologna, a Monghidoro, che è un paesino sull'Appennino a circa 800 metri, ho deciso di praticamente rifar ripartire questa azienda che ormai era stata abbandonata da circa due decenni. Ma lei cosa aveva studiato? Io ho fatto il liceo scientifico, poi mi sono iscritto alla facoltà di agraria a Bologna, e dove ho frequentato solo 2 anni, perché avendo presentato all'Unione Europea domanda di aiuto per riaprire diciamo l'azienda di mio nonno, dopo me l'hanno accettata e non sono riuscito più a finire per mancanza di tempo. Beh, ora passerà molto tempo in azienda, immagino, ma volevo chiedere quali sono le sue produzioni, Andrea? Allora, le produzioni sono: all'inizio coltivavamo cereali quali grano tenero, orzo e foraggio, che davamo da mangiare poi alle nostre mucche e ai cavalli. Poi successivamente, visto che le rese del grano tenero su di qua non sono molto alte, ho deciso di provare la coltivazione del farro. e il farro mi ha dato subito delle gran soddisfazioni, perché è un cereale antico ma allo stesso tempo molto ma molto rustico e molto forte, che si adatta molto bene a, diciamo, il clima di queste zone. E da lì ho messo in piedi tutta la filiera di prodotti a base di farro, dal farro perlato al farro decorticato, farina, fino ad arrivare alla pasta. Addirittura arriva fino alla pasta, quindi. Arrivo fino alla pasta, sì, sedanini, fusilli, fiori di farro, tutto a base di, appunto, di questo cereale. Senta, contento dopo anni, appunto, che ha lasciato gli studi per poter continuare a fare questo tipo di lavoro di agricoltura, insomma? Sì, all'inizio ci sono stati, abbiamo dovuto fare dei grossi sacrifici della mia famiglia, però adesso le soddisfazioni stanno cominciando ad arrivare e siamo molto contenti. Bene, io Andrea la ringrazio e le auguro di proseguire, magari di sicuramente piano piano di arrivare a una pasta di grandissima qualità. Lo ripeto, Andrea Degli Sposti, azienda La Martina. E qual è esattamente la frazione di Bologna dove lei ha questa attività? La frazione è proprio La Martina. L'azienda agricola prende il nome dalla frazione, che è La Martina, comune di Mondighidoro. Ah, Mondighidoro. Senta, si può comprare direttamente da lei in azienda? Certo, noi abbiamo un negozio aziendale dove si possono comprare tutti i prodotti biologici dell'azienda, perché siamo tutti certificati biologici. Bene, la ringrazio Andrea. Ora arriviamo, ho lasciato per ultima una storia di un prodotto che magari a molti lascerà un po' così perplesso, però sono molti che amano le lumache. Quindi la lumaca, come dicevo, è usata molto anche in cucina, in alcune parti d'Italia, anzi la lumaca è veramente una prelibatezza. E io ora vado a raccontare con Davide Merlino di Campo Felice di Roccella in Sicilia la storia di due amici, appunto Davide e Michelangelo, che si sono inventati questa specialità che è la lumaca di Madonita. Buongiorno Davide. Salve, buongiorno. Madonita è un posto, un luogo? Sì, Madonita, le Madonie sono la catena montuosa. Ah, le Madonie, ecco, sì. Deriva dalle Madonie, sì, quindi sì. Zona privilegiata anche per il cibo, appunto, vino, panettoni, un po' di tutto. Senta, sì. Ci racconta un po' la storia, come siete arrivati alle lumache? Ma diciamo che è nata quasi per gioco. il mio amico, come diceva Michelangelo, lavorava in agricoltura con il padre, ha fatto un corso di capo azienda e lì ha sentito parlare dell'elicicoltura, questo settore che poteva essere un'alternativa alla tradizionale agricoltura. Allora da lì è nata un po' l'idea. All'inizio magari l'abbiamo presa un po' così a ridere, per quando me l'ha proposta pensavo fosse più uno scherzo che altro, perché le lumache sembrava un po' strana come attività. Però poi ci siamo informati, abbiamo girato un po' su internet e abbiamo visto che materialmente c'era un mercato, qualcosa già esisteva e poteva essere interessante. E da lì è nata... Ma è difficile l'attività di allevamento delle lumache? Eh sì, abbastanza, perché l'allevamento ha diverse problematiche, perché in allevamento noi coltiviamo degli ortaggi solo ed esclusivamente per l'alimentazione delle lumache. Quindi abbiamo i problemi dell'agricoltura per gli ortaggi e i problemi dell'allevamento delle lumache, che poi non sono cavalli o mucche, che se stanno male te ne accorgi. Quindi essendo un animale particolare diventa un po' difficile andarla a gestire, e infatti noi l'abbiamo imparato negli anni. Abbiamo imparato negli anni a capire le varie problematiche e a risolverle. Senta, voi producete anche una chicca gastronomica, il caviale di lumaca. Sì. Ci racconta come fate ad ottenerlo? Il caviale di lumaca nasce da, appunto, sono le uova delle lumache. In allevamento un giorno ci siamo accorti di questo grappolo di perle bianche, e da lì è nata l'idea, ma può essere commestibile, può essere buono da mangiare. Abbiamo fatto degli esami microbiologici, abbiamo fatto dei test e abbiamo visto che materialmente aveva delle grossissime potenzialità, perché ha un sapore unico, particolarissimo, non si può paragonare a nient'altro, sa di erba, di terra, di funghi, quindi è un sapore unico. Poi anche l'estetica fa da padrone, perché sono appunto delle piccole perle bianche, quindi in cucina sono fantastiche da utilizzare come condimento, come, diciamo, grafica, se così si può dire, non so. Volevo chiedere un'altra cosa, come commercializzate il vostro prodotto, i vostri prodotti? Ma noi lavoriamo tantissimo con internet, 90% del nostro commercio si basa su internet. Abbiamo puntato molto sui social, sul nostro sito internet, sull'immagine dell'azienda, quindi sì, molto lavoriamo con internet. Ecco, ma non c'era una tradizione nel vostro territorio? L'avete completamente, diciamo, inventata voi? Sì, assolutamente sì. Non esisteva l'allevamento di lumache, anzi in Sicilia ce n'erano pochissimi. Poi noi, oltre al caviale, abbiamo anche inventato il sistema di allevamento vero e proprio, ce lo siamo creati noi sbagliando. Quindi nei primi 3 anni abbiamo soltanto... Beh, poi però creato. alla fine ci siete riusciti e costituite un bellissimo caso di tante queste belle storie che oggi abbiamo raccontato, che molte non siamo riusciti a raccontare perché veramente trovare i nostri amici agricoltori non è molto facile. Ringrazio infatti la redazione che ha lavorato molto su questo, e Aureggi, che di fronte alle lumache sicuramente vedo che immediatamente pensa a stasera cosa mangerà. Linea, bene, vi saluto cari radioascoltatori, vi do appuntamento alla prossima settimana, grazie.